Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Al Giro d'Italia, il giorno del dolore, tutti insieme al traguardo per ricordare Weiland. Libia, bombe sul bunker di Gheddafi, 8 raid in 3 ore nella notte. Microsoft avvicina all'acquisto di Skype. Roma e la sindrome terremoto, tutto falso, assicurano gli studiosi di Bendandi. Una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Un Giro d'Italia a lutto, quello ripartito oggi da Genova. Ne parleremo anche nel nostro speciale in chiusura di questa edizione con Pier Augusto Stagi, ma subito ci colleghiamo in diretta con il nostro Dario Ceccarelli. Sì, buongiorno Rita. Il giorno dopo la morte di Wouter Weiland, come hai detto tu, il Giro riparte da Genova per arrivare in silenzio dopo 216 km a Livorno. Quella che sentite è la fanfara dei bersaglieri alla partenza. Oggi non ci sarà corsa, non ci sarà un vincitore, né premiazioni, né festeggiamenti. La Leopard, la squadra di Weiland, ha scelto di commemorare così la morte del loro corridore. Una specie di staffetta in cui le squadre, alternandosi alla guida della corsa, onorano il corridore caduto. Sembra una scelta giusta, rispettosa sia per i familiari che per tutto il Giro. Sentiamo il patron della corsa, Angelo Zomegnano. Abbiamo condiviso un progetto di tappa che sta a cuore ai corridori e, esattamente come avevo promesso ieri, noi rispettiamo, il Giro rispetta la volontà dei corridori e le loro intenzioni. Sostanzialmente, dopo un attimo di raccoglimento ai blocchi di partenza e poi i ragazzi si metteranno in bicicletta, tutti andranno verso Quarto dei Mille passando nei viali del Gaslini per portare 3 minuti di tentata serenità a quei bambini che soffrono. Insomma, una giornata di riflessione, anche se mi sembra che il Giro sostanzialmente non abbia nulla da rimproverarsi. I soccorsi sono stati immediati, lo avete sentito, la sicurezza c'era. Purtroppo nel ciclismo, nelle corse, l'incidente è lì, incombe, può esserci e fa parte un po' di questo gioco che a volte è un po' perverso. Va con solo il fatto che questa volta non c'è stato lo show del must go home, di andare avanti comunque con quelle felicità inutili che a volte succedono nello sport. E va dato anche atto alla RAI che l'ha saputo seguire con la giusta misura. Per il momento ci fermiamo qui in una giornata di silenzio. Grazie a Dario Ceccarelli. Dall'estero adesso in Libia, dove la battaglia NATO si intensifica, 8 raid nella notte in 3 ore non segnano l'avvio di un'escalation della campagna libica degli alleati, ma la volontà di mantenere alta la pressione sul regime di Gheddafi, lo ha rilevato un portavoce dell'Alleanza Atlantica. E intanto il vento di Mestrale blocca gli sbarchi a Lampedusa, la polemica politica però invece va avanti. Vincenzo Miglietta in diretta. Sì, buongiorno, come dicevate da studio le condizioni climatiche non favoriscono nuovi sbarchi nel canale di Sicilia, si registrano al momento un mare forza 5 e raffiche di vento che superano i 20 nodi. A Lampedusa non si segnalano per questo arrivi dall'alba di domenica, quando un barcone si è incagliato sugli scogli. Nel centro d'accoglienza dell'isola restano intanto 350 extracomunitari, tra i quali 122 minori di varia nazionalità. Questo dopo il trasferimento di 795 profughi partiti ieri sera con la nave Excelsior alla volta di Cagliari. Sul fronte politico il ministro degli esteri Frattini torna a criticare l'Europa. Non è stata, dice Frattini, come avremmo desiderato. L'Italia replica, però il ministro dell'interno tedesco non ha alcun motivo di lamentarsi per l'assenza di solidarietà. Il responsabile del Viminale Maroni rilancia e dice: i barconi arrivati nelle scorse settimane dalla Libia hanno portato oltre 10.000 profughi. È necessario, dice Maroni, bloccare la guerra in Libia. Dall'opposizione il PD punta il dito sul governo e chiede che l'esecutivo abbia un ruolo maggiore nella comunità internazionale. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo, e siamo a pochi giorni dal voto amministrativo. Clima dunque ancora particolarmente elettrico e botta e risposta tra il Premier e Fini. Sempre in diretta da Roma, Elisabetta Fiorito. Non solo elezioni amministrative ma anche test politico. Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi interviene sulla prossima tornata elettorale in un messaggio su YouTube. Una novità rispetto ai videomessaggi, alle telefonate, ai convegni. Con la sinistra la libertà è a rischio, spiega Berlusconi, ma sentiamo lo stesso Presidente del Consiglio. Le elezioni del 15-16 maggio sono elezioni amministrative, ma dobbiamo vincerle non solo per portare il buon governo nei comuni e nelle province, ma anche e soprattutto per confermare e rafforzare il nostro governo sul piano nazionale. Pensa invece a come saremmo tutti meno liberi se la sinistra ritornasse al potere e mettesse in atto i programmi che essa stessa ha annunciato. Per Berlusconi il voto serve quindi anche per rafforzare il governo nazionale dopo il tentativo di rovesciamento da parte di Gianfranco Fini e della sinistra, e oggi il Presidente della Camera replica: nessuno può pensare di essere sottoposto ai limiti e ai controlli previsti dalla legge. Da parte del Partito Democratico il segretario Pierluigi Bersani lancia la sua premiership e spiega: sono io il candidato per il centro-sinistra, ma prima voglio un progetto da discutere con gli altri. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta. E noi adesso puntiamo sui dati economici con la produzione industriale. Secondo mese consecutivo positivo per la produzione industriale italiana. A marzo l'Istat registra un incremento dello 0,4% su febbraio e del 3,1% rispetto a marzo 2010. Sono dati sufficienti per poter parlare di ripresa? Sentiamo Sergio De Nardis, capo economista di Nomisma. Questo dato di marzo aggiunge qualche decimo e prolunga di qualche decimo il rimbalzo che c'era stato il mese precedente a febbraio. Però abbiamo avuto una botta tremenda a gennaio che non si è verificata negli altri paesi, per cui adesso il trimestre si chiude con un meno 0,1% e fa seguito questa produzione industriale in negativo a un meno 0,6% del quarto trimestre. Parlare di ripresa forte su questo dato è un po' ardito. La produzione di energia cresce dell'1,5% rispetto a febbraio e si contrae rispetto a marzo 2010 dell'1%. Segnali positivi arrivano dal fronte degli autoveicoli, con una produzione aumentata del 16,1% rispetto al difficile marzo 2010. Nicola Filippone, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto a Firenze si discute ancora di Europa e di economia. E allora noi ci colleghiamo in diretta con Firenze con Gigi Donelli. Sì, buongiorno Narita, un saluto agli ascoltatori. Effettivamente l'ipotesi di un default, di una ristrutturazione del debito, equivale a un suicidio politico. A dirlo è Lorenzo Binismaghi, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, nel suo intervento di questa mattina qui a Firenze. Non è nell'interesse di alcun paese uscire dall'euro, sarebbe una situazione drammatica, sarebbe un suicidio politico, credo. Nessun capo di Stato, di governo riuscirebbe a sopravvivere di fronte alla propria popolazione una decisione di questo tipo. La Grecia deve attuare il programma, non teniamo più conto delle agenzie di rating, soprattutto nei paesi dove c'è un programma di risanamento col fondo monetario, riteniamo che le informazioni che abbiamo noi sono migliori. Per risolvere la crisi del debito, va ribadito Binismaghi, ci vuole più Europa, occorre cioè aumentare la responsabilità delle autorità, che significa istituzioni europee più forti, regole più stringenti. Nel suo intervento critica l'idea che la governance economica dell'area possa essere rafforzata delegando ai mercati finanziari la scelta delle politiche appropriate. I mercati finanziari, ha detto, possono avere incentivi perversi fino al punto di spingere per il default. Al contrario, secondo l'esponente della BCE, occorre rafforzare la cornice della governance economica dando maggiore automaticità alle regole del patto di stabilità europeo. Se non ci sono domande, Anna Rita da Firenze è tutto. Grazie a Gigi Donelli, e noi ci trasferiamo ancora nella capitale per l'assemblea annuale di Rete Imprese Italia con un imperativo: ridurre la pressione fiscale. Ci racconta tutto in diretta Alessandra Schepisi. Sì, è così, il taglio delle tasse è la priorità del Paese, la madre di tutte le riforme. Questo è il messaggio lanciato dal presidente di Rete Impresa Giorgio Guerrini nella prima assemblea annuale dell'organizzazione che raggruppa le micro e piccole imprese per un totale di 2.600.000 imprenditori. Tutte le azioni a favore dell'impresa, dice Guerrini, sono solo pannicelli caldi se non si procede ad una riduzione della pressione fiscale oggi a livelli insopportabili. Siamo oltre il 50%, meno tasse sia in termini di aliquote che di adempimenti, chiedono dunque le piccole imprese che plaudono al decreto sviluppo approvato dal governo. Le misure di snellimento vanno nella giusta direzione, dicono, ma occorre fare di più. Rete Imprese Italia chiede poi di tornare a mettere le micro e piccole imprese al centro delle strategie di sviluppo del Paese con un piano di rilancio della competitività in 7 mosse: semplificazione, innovazione, lavoro e welfare, mezzogiorno, Europa, credito, fisco. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra, noi restiamo a Roma, però restiamo per parlare di profezie, profezie sbagliate. Lo avrete sentito, ne parlano oramai tutti, si parla di questo possibile terremoto domani nella capitale. Tutto falso, l'avrebbe previsto un grande studioso italiano, Bendandi, e noi siamo in collegamento e la ringraziamo anche per l'attesa al telefono con la presidente dell'associazione Bendandiana, Paola Lagorio. Buona giornata. Buona giornata a voi. Presidentessa, allora è tutto falso, possiamo star sereni. Ci può spiegare bene, innanzitutto ci ricorda anche la figura di Bendandi? Certo, Raffaele Bendandi è un faentino che è nato a Faenza nel 1893 ed è morto sempre a Faenza nel 1979. Aveva 86 anni e di questi 86 anni direi che ha speso 70 anni di vita per lo studio dei fenomeni naturali, in particolare dei terremoti. Ed è proprio grazie a questa sua capacità, questa sua previsione dei terremoti, che la figura di Bendandi ha superato anche i confini dell'Italia e il suo nome è famoso sia in America che in Giappone. È una piccola nota, però l'imperatore del Giappone venne a trovare Raffaele Bendandi nella sua casa di via Manara proprio perché era entusiasta degli studi di Bendandi. Questo per sintetizzare la sua figura. Certo, però in queste documentazione di Bendandi non c'è traccia del terremoto di domani, vero? No. Assolutamente, ma soprattutto è importante che capiamo questo, cioè Bendandi ha lasciato dei documenti che vanno dal 1996 al 2012, sono documenti in cui lui studia l'attività del Sole e quindi le date che noi abbiamo per gli anni passati e per gli anni futuri sono tutti riguardanti l'attività del Sole. In questi documenti mai e poi mai compare la data dell'11 maggio, ma soprattutto non compare mai il nome del luogo Roma. Quindi sicuramente direi che chi ha voluto lanciare questa previsione si è agganciato al nome di Bendandi perché era l'unica figura italiana che potesse avere credibilità nella previsione di un terremoto, perché in realtà l'unico personaggio che nel passato ha avuto questa credibilità è stato Raffaele Bendandi. Lei è stata chiarissima, la ringraziamo. Ringraziamo la presidente dell'associazione Bendandiana Paola Lagorio che ci ha tranquillizzato sulle profezie riguardanti il terremoto di domani a Roma. State tranquilli, nulla accadrà. Al Giro d'Italia è il giorno del dolore, tutti insieme al traguardo per ricordare Veilant. Libia, bombe sul bunker di Gheddafi, 8 raid in 3 ore nella notte. Microsoft vicina all'acquisto di Skype, affitti irregolari, il governo interviene. Ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Questi dunque i nostri titoli. Di cosa parliamo adesso? Parliamo del decreto sul federalismo municipale che contiene le iniziative contro gli affitti in nero. Dal 7 giugno gli inquilini che denunceranno l'assenza di un regolare contratto si vedranno riconosciuti uno sconto sul canone d'affitto anche del 90%. Romolo Napolitano ha sentito il segretario nazionale del sindacato Inquilini Sunia, Aldo Rossi. È una norma che, se applicata, può essere un deterrente dell'evasione fiscale. Però teniamo conto che noi registriamo, purtroppo, ancora incertezza nell'Agenzia delle Entrate. Cioè il cittadino che si rivolge lì per sapere se un contratto è registrato o meno, se il proprietario è in regola, per adesso non ha risposte molto precise. Quindi sostanzialmente ci auguriamo che l'Agenzia delle Entrate possa effettivamente mettere gli inquilini in condizione di potersi difendere. Vi chiedono un po' però di fare da dilatori, o mi sbaglio? Qui c'è un problema di applicazione di una norma. Il conduttore ha interesse evidentemente a vedersi ridotto il canone sulla base di una norma che lo prevede, quindi non la chiamerei in quei termini qua. Perplessità sul provvedimento sono invece state espresse dall'Unione Piccoli Proprietari. Sentiamo il presidente dell'Unione Piccoli Proprietari, Giacomo Carini. Il contratto sorto dopo il 2005, no? E che non sia registrato è un contratto nullo. Allora l'inquilino che va a denunziare il proprietario per questa situazione di mancata registrazione del contratto denuncia in effetti se stesso, perché si trova in un'occupazione di occupante senza titolo. Quindi bisogna stare ben attenti quando si usi questo sistema per poter denunziare il proprietario, perché un boomerang è un contropiede. Fatte queste premesse, è chiaro che l'epoca dell'evasione fiscale è finita. I proprietari di immobili si devono rendere conto che oggi, specialmente dopo l'introduzione della possibilità di risparmiare imposte con la cedolare secca, l'evasione non paga più. E l'Associazione Bancaria Italiana ha presentato questa mattina a Roma il rapporto immobiliare residenziale 2011 sull'andamento del mercato dopo la crisi. Nel 2010 si è registrato un leggero rialzo delle attività immobiliari, il più 0,5% rispetto al 2009, anche se per i primi tre mesi del 2011 si prevede una contrazione delle compravendite. Il commento del direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana, Giovanni Sabatini, resta comunque positivo. Considerata la virulenza, la profondità della crisi conosciuta nel biennio 2008-2009, le famiglie italiane hanno dimostrato una relativa tenuta. Il peso della rata sul mutuo per il complesso delle famiglie non è elevata e è cresciuto ultimamente, nell'ultima fase, in misura relativamente sostenibile. In primo piano anche Microsoft, vicino a chiudere un accordo per l'acquisto del leader della telefonia via internet Skype. Sentiamo i dettagli. Per Skype sarebbe il terzo passaggio di mano, per Microsoft l'operazione più consistente della sua storia, insieme operazione d'immagine e un colpo nella guerra a Google. Un matrimonio sussurrato però, di cui la certezza ancora non c'è. A scriverlo il Wall Street Journal, secondo cui Microsoft sarebbe vicina all'acquisto di Skype per un valore di circa 8,5 miliardi di dollari, quanto varrebbero i suoi quasi 150 milioni di utenti al mese. Il quotidiano sostiene che l'accordo potrebbe essere annunciato già in giornata. I negoziati però sono ancora in corso e non è escluso che si risolvano in niente. D'altra parte, la società che controlla il sistema più conosciuto della telefonia via internet aveva annunciato l'estate scorsa la sua intenzione di sbarcare in borsa e voci su una possibile acquisizione, guarda caso proprio da parte di Google, erano già circolate. Un dato è certo: se la quotazione di 8,5 miliardi di dollari fosse vera, sarebbe ben oltre le attese. Creata nel 2003, Skype nel 2005 venne acquistata da eBay per 3,1 miliardi di dollari. Nel 2009 la maggioranza delle azioni fu ceduta per poco più di 2 miliardi di dollari. In sei anni il valore si sarebbe quasi triplicato. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le bandiere blu di Legambiente, la maggior parte anche in questa edizione, il 91% rappresenta la riconferma delle località balneari dell'anno scorso. Ci sono però delle new entry: Amendolara in Calabria, Gardone Riviera in Lombardia, Fasano in Puglia, Oristano e Castelsardo in Sardegna, Ispica e Lipari in Sicilia. Ci sono anche dei rientri: Scanno in Abruzzo, Misano Adriatico in Emilia Romagna, Otranto in Puglia, Quartus Sant'Elena in Sardegna. Escono dalla classifica Gaeta nel Lazio, Castellaneta e Castro in Puglia. E in chiusura ci spostiamo nella capitale per parlare di musei, dell'iniziativa prevista per sabato prossimo in molte città europee, in Italia Roma in testa. E così Andrea Viali. Roma punta a diventare anche la capitale della notte dei musei, l'iniziativa che si svolgerà sabato prossimo 14 maggio e che coinvolge diverse città in tutta Europa. A Roma saranno più di 80 gli spazi culturali ed espositivi aperti gratuitamente dalle 8 di sera alle 2 del mattino. Si potranno visitare ad esempio i musei capitolini, le scuderie del Quirinale, il Palazzo delle Esposizioni, il Maxi, Castel Sant'Angelo e Galleria Borghese, tanto per citarne alcuni. Il programma dell'iniziativa è stato presentato oggi e prevede anche una serie di concerti e spettacoli che si svolgeranno in tutta la città. L'evento principale sarà in Piazza del Campidoglio, dove si esibiranno anche Siria e gli Zero Assoluto. Per ora da Roma è tutto. Grazie ad Andrea Viali, tutto anche per questa edizione. Grazie in regia a Filippo Aureggi. Adesso c'è lo speciale Giro d'Italia, poi Italia in controluce. Il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.